Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. E ci sono novità anche su Heute Journal mit Klaus Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno e bentornati alla nostra finestra settimanale sulle pagine culturali dei giornali stranieri. Oggi parleremo di Facebook. Facebook è la più grande comunità virtuale del mondo, un luogo immateriale dove si incontrano amici, vicini di ombrellone, ex compagni di infanzia o di liceo, e dove si portano avanti anche iniziative umanitarie e perfino campagne elettorali. Ma da un po' di tempo Facebook è diventato anche il punto di incontro per persone affette da una sindrome terribile e devastante, l'anoressia. È una forma di mutuo soccorso o una subdola campagna per fare proseliti e indurre altri infelici ad autodistruggersi? Questa è la domanda che gli esperti si pongono di fronte all'esplosione di anoressici su Facebook. E questo è uno degli argomenti di cui parleremo nella puntata di oggi della Finestra sul Cortile, ma prima faremo una puntata a Guadalajara, in Messico, dove si apre oggi la Fiera Internazionale del Libro, con l'Italia primo ospite d'onore, primo paese non ispanico ad essere invitato come ospite d'onore. Ma anzitutto sentiamo cosa prevede il nostro sommario. Stati Uniti. Escono dall'anonimato e si organizzano su Facebook. Sono i gruppi pro-anoressia. Messico. Apre a Guadalajara la 12ª Fiera Internazionale del Libro. Ospite d'onore l'Italia. Germania. Mafia, padrini, pizzerie e preti falsi. Una giornalista racconta la piovra in salsa tedesca. Puntuali le minacce all'autrice. Sudafrica. 94.000 insegnanti cercasi. A decimare il corpo docenti, pensionamenti, emigrazione e AIDS. Las Vegas. Dopo slot machine e tavoli da poker, arriva il primo museo della mafia, ma molti cittadini non approvano il progetto. Malesia. Maledetto yoga. I leader islamici radicali accusano la disciplina indiana di corrompere le anime dei musulmani. I giornali messicani parlano molto di questo evento che si apre oggi. Il Messico occidentale, Guadalajara, è la Fiera Internazionale del Libro. Quest'anno, per la prima volta, l'ospite d'onore è l'Italia, un paese appunto estraneo all'area originaria, insomma, che gravitava intorno alla Fiera di Guadalajara. E proprio per l'apertura della fiera interverrà il ministro degli esteri italiano, Franco Frattini. Sono molte le iniziative collegate a questa grande manifestazione editoriale. C'è per esempio il fatto annunciato dai giornali messicani che l'Italia donerà 24.000 libri alle biblioteche messicane. Avremo una folta delegazione di scrittori e scrittrici, di intellettuali italiani che vanno proprio in Messico in questi giorni, ma ci saranno appunto una serie di attività collaterali che rimarranno anche dopo che la fiera resterà chiusa, come atto di omaggio proprio della cultura italiana al paese ospitante. Tra le iniziative curiose, le novità che verranno presentate alla Fiera del Libro di Guadalajara, La Jornada, un giornale messicano, in un articolo di Arturo García Hernández ci segnala anche il ritorno di Mafalda, uno dei celebri personaggi del fumetto disegnato da Kino, che in realtà si chiama Joaquín Salvador Lavado Tejón, questo è il suo vero nome, ma notissimo in tutto il mondo, e che presenta questa sua Mafalda inedita, che viene pubblicato proprio per commemorare i 25 anni della prima comica, della prima striscia comica in spagnolo, forse la più famosa nel mondo. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono la nostra ospite, Melania Mazzucco, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno Melania. Buongiorno, buon pomeriggio. Grazie di essere con noi. Melania Mazzucco ha già le valigie pronte per partire anche lei per Guadalajara, dove presenterà il suo Un día perfecto, che sarebbe Un giorno perfetto, che è un romanzo che è diventato anche film, e entrambi verranno presentati in traduzione spagnola, vero, a Guadalajara? Sì, ci sarà una proiezione del film con poi incontri sul rapporto fra cinema e letteratura, che in Italia in questi ultimi anni ha dato parecchi frutti anche buoni, e poi ci presenterò la traduzione spagnola del romanzo, che è uscita in Spagna e nei paesi di lingua spagnola appunto a ottobre. Ecco, mentre intanto è appena uscito nelle librerie italiane il suo nuovo romanzo La lunga attesa dell'angelo, pubblicato da Rizzoli, e che ruota intorno alla figura del grande artista Tintoretto, ma questo naturalmente non è ancora stato tradotto in spagnolo, ma sarà tradotto, immaginiamo, in molte lingue. Beh, penso di sì, non lo so, diciamo che andare anche alle fiere internazionali è sempre un'occasione per fare il punto con gli editori, perché le fiere poi alla fine sono due cose, no? Cioè, da una parte un mercato di editori che si incontrano, si scambiano libri, comprano, vendono, leggono anche, e poi per noi scrittori è un modo per confrontarci con gli scrittori di tutto il mondo che certo. Vengono invitati di volta in volta. Ecco, tra gli scrittori messicani, lei ha qualche preferenza? Ne conosce alcuni, ne stima alcuni in particolare? Beh, questi ultimi anni è stato piuttosto interessante Arriaga, che è uno scrittore divenuto poi anche regista, quindi ha scritto anche tra l'altro dei bellissimi film, prima per Iñárritu. Io mi ricordo di aver visto tanti anni fa, parecchi anni fa ormai, Amores Perros, che fu veramente una novità piuttosto fulgurante, insomma. Come no, se ne parlò molto. E poi è diventato più famoso con Babel, quest'anno era a Venezia anche con un suo film The Burning Plain, quindi lo trovo uno scrittore piuttosto interessante. E questo sarà probabilmente al dibattito su letteratura e cinema, immaginiamo. Sì, poi lui sarà, credo, anche a un evento di presentazione del Festival della Casa delle Letterature, il Festival di Roma, perché sì. Arriaga era stato qui a Roma e so che siamo tutti invitati a raccontare un po' quell'esperienza. Ecco, pare che le autorità messicane abbiano dovuto pregare parecchio tempo gli italiani perché venissero alla fiera di Guadalajara. Per molto tempo questa fiera è stata un po' trascurata dagli editori internazionali non di lingua spagnola. Ma io ne avevo sentito parlare infatti soprattutto dagli editori spagnoli e anche di area americana, quindi anche Nord America, perché diciamo in America le due fiere importanti sono Guadalajara per il Sud America e New York per il Nord America. E ovviamente per gli editori europei il mercato sudamericano non era stato preso in grande considerazione. In realtà è un mercato molto stimolante, peraltro di paesi in grande crescita anche culturale come il Cile, il Perù, la Bolivia, quindi è sicuramente un'occasione per l'Italia andare in massa questa volta, farsi conoscere. Penso che sia un'occasione importante e mi dispiace se qualcuno appunto ha esitato ad accettare un invito così. Beh, affascinante comunque, per noi. Sì, comunque insomma ci sono quasi tutti e probabilmente insomma hanno capito che dopo tutto l'area linguistica ispanica è più vasta ormai di quella di lingua inglese e quindi certamente, data le difficoltà che incontrano anche gli autori italiani a farsi tradurre in America, lei è una delle poche eccezioni. No? Diciamo non solo per gli italiani, in realtà è un po' per gli europei in generale. Mi ricordo una delle cose che mi colpì di più quando andai appunto alla fiera di New York, mi dicevano gli editori americani che il 3% del mercato era occupato da romanzi, saggi di traduzione, si intende traduzione di tutte le lingue, sì. Italiano, francese, tedesco, olandese, norvegese per dire, e il 97% erano testi di lingua inglese, quindi il problema effettivamente è italiano, però è proprio nostro, europeo, forse di farci conoscere fuori. E forse anche un problema americano, che sono un po' autarchici, no? Cioè, forse che beh, non... anche perché loro hanno la fortuna che persone di tutto il mondo scelgono di scrivere nella loro lingua, certo. È come se avessero già in casa una buona parte della produzione mondiale. Non c'è dubbio, questa è una specie di Commonwealth letterario e culturale che fa capo poi anche in gran parte alla Gran Bretagna, no? Tutti i migliori scrittori di lingua inglese degli ultimi anni non sono inglesi, ma vengono proprio dalle ex colonie. Sì, penso agli indiani, per esempio, che hanno inventato una nuova forma di romanzo. Loro hanno questa fortuna, ma forse è una fortuna che noi dobbiamo meritarci adesso. Certo. Bene, allora buon viaggio e in bocca al lupo a Melania Mazzucco e a presto. Grazie, crepi. E adesso andiamo in Germania, dove una giornalista, Petra Reschi, corrispondente dall'Italia del settimanale Die Zeit, ha scritto un libro sulla mafia, ma sulla mafia nelle sue propagazioni, nelle sue propaggini tedesche. E infatti il titolo è Mafia, padrini, pizzerie e preti falsi. Naturalmente il volume prende spunto dall'omicidio di Duisburg dell'agosto del 2007, quando appunto la Germania ha scoperto di avere la mafia in casa. In realtà l'infiltrazione della criminalità organizzata oltre le Alpi è un fenomeno avviato da tempo, ma fino all'anno scorso nemmeno la polizia tedesca aveva dato troppa importanza agli allarmi dei colleghi italiani. Le reazioni al volume di Petra Reschi non si sono fatte attendere e la giornalista, durante una presentazione a Erfurt in Turingia, è stata pubblicamente insultata e minacciata da un ristoratore accusato nel libro di attività illecite. Ma la Reschi non si lascia intimidire e afferma combattiva: «Io non ho paura della mafia». E restiamo in tema di Cosa Nostra, ma spostiamoci a Las Vegas, dove, come ci informa il Guardian in un articolo di Kevin Mitchell, sta per essere costruito uno speciale museo dedicato appunto al mob, cioè alla mafia. Un museo del valore di 50 milioni di dollari che aprirà nella primavera del 2010 e che celebrerà i legami della mafia con la capitale del gioco d'azzardo nel mondo. È un'iniziativa che eccita molto il sindaco Oscar Goodman, ma che invece viene molto criticata da una parte dei cittadini che non vogliono essere identificati con la criminalità organizzata. Speriamo almeno che questi 50 milioni di dollari non siano denaro sporco. La finestra sul cortile. Out of the Shadows, fuori dall'ombra, è il titolo di un articolo di Tina Peng su Newsweek che parla di un fenomeno preoccupante, e cioè il proliferare di gruppi favorevoli all'anoressia, detti pro-ana in termine tecnico, diciamo in slang, che si affacciano sempre più frequentemente su Facebook, che come sappiamo è una delle comunità virtuali in più tumultuoso sviluppo sul web. E una di questi gruppi si chiama Ana Boot Camp, una nuova web page che ha fatto la sua comparsa recentemente, e scrive Tina Peng, propone una strana dieta, un regime di 30 giorni che permette di diminuire drasticamente il proprio peso corporeo senza bisogno di esercizio fisico. E la verità è che poi i membri del gruppo non sono particolarmente obesi, perché vorrebbero abbattere il loro apporto calorico giornaliero da 500 calorie a zero. Ma 500 calorie è meno della metà del minimo richiesto per una donna per sopravvivere in maniera decente e sana. Questo tradisce quindi qual è la finalità di Ana Boot Camp. In realtà Ana esattamente vuole dire questo, vuole dire che dietro questa sigla si nasconde un gruppo pro anoressia. I membri sono prevalentemente donne e dicono che fanno parte di questo gruppo proprio per cercare di venire a patti con la loro condizione e di parlare tra di loro dei propri problemi. Per esempio Rose, una 17enne del Maryland, intervistata da Tina Peng e che ovviamente non vuole far conoscere la sua vera identità, dice finalmente ho trovato un luogo dove ci sono delle persone con problemi simili ai miei e non c'è nessuno che cerchi di guarirmi o di dirmi che sto facendo qualche cosa di orribile, di disgustoso, che mi mette al di fuori della comunità civile. Per me parte del mio malessere è proprio il fatto di non riuscire ad avere l'attenzione degli altri. In questo sito riesco a trovarla perché ci sono dei miei simili. E il problema è che gli psicologi dicono che questo sistema di aggregazione sul web in realtà poi genera una specie di reclutamento, no? Di proselitismo quasi, per cui diffonde delle abitudini anoressiche in molte persone infelici o con dei disordini alimentari in stadio iniziale, provocando un'anoressia conclamata. Uno studio del 2006 ha scoperto che il 96% dei teenager diagnosticati con dei disordini alimentari erano stati proprio attraverso dei websites di questo tipo, erano stati ammaestrati su come usare delle tecniche di dieta e di purga per perdere peso. E quindi attenzione a questo fenomeno che evidentemente sta diventando allarmante. Ma proprio per discutere di questi temi abbiamo al telefono un ospite che salutiamo, Fabiola De Klerk. Buongiorno. Buongiorno. È la signora De Klerk, che è nata a Bruxelles ma da sempre vive in Italia, ora è a Milano, e nel 91 ha fondato l'ABA, l'Associazione per lo Studio e la Ricerca sull'Anoressia, Bulimia e l'Obesità. È anche autrice di parecchi libri sul tema, tra cui Tutto il pane del mondo, Donne invisibili, Fame d'amore, Mami Marrakesh. Ecco. E signora De Klerk, ecco, lei come valuta? Ovviamente questo fenomeno vi è noto, insomma lo seguite da tempo. Sì, noi valutiamo come centro di osservazione, anche centro di cura, nel senso che l'ABA ha centri di cura in tutta Italia, quindi abbiamo la possibilità di confrontarci con i nostri collaboratori di altri territori. Siamo una specie di osservatorio permanente dei fenomeni sociali che esistono in questo paese e anche in altri, ma parliamo di questo dove io vivo. Allora, le cose cambiano intanto di mese in mese adesso, no? Ogni mese, ogni due mesi questi fenomeni si allargano, si spostano e hanno delle evoluzioni sempre più preoccupanti. Noi valutiamo questo, parlo per me, ma parlo anche a nome dei miei collaboratori che sono psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, certo, ricercatori. Quello che ritorna a me anche sentendola parlare è che noi stiamo parlando di sette. Stanno nascendo delle sette oggi, come sono nate altre sette, come purtroppo continuano a nascere, che includono o reclutano, la parola è terrificante, no? Però è giusta, è vera così, delle anime sole, certo, persone, donne, bambine, adolescenti che non si sentono visti o viste dall'altro e che si infilano all'interno di questi siti ammiccanti, ma che hanno delle finalità molto, secondo me, che sono assolutamente perverse, no? Che è quello di riempirsi della vita e della sofferenza di queste anime perse, anime sole, probabilmente nascendo dalle stesse questioni, loro sette, no? Certo. E che inducono queste persone a seguire delle, in questo caso delle diete, ma dei regimi di vita, potremmo allargarlo a tutto, che sono contro qualsiasi logica, sono contro la vita, contro il desiderio della vita, contro qualsiasi desiderio, ma le sette sono spesso contro il desiderio, no? Infatti, però appunto hanno anche una loro attrattiva, no? Perché difatti, come dice questa Rose, proprio per uscire dalla solitudine e dall'isolamento a cui lei stessa accennava e che spesso è all'origine di questi disturbi e che si riuniscono poi in questi gruppi sul web, no? E dove trovano finalmente ascolto. Ma ascolto, lei ha ragione che parlo così, mi scuso se sorrido, questo non è un ascolto, no? È la teoria dei vasi comunicanti, sono persone che si comunicano in fondo le stesse cose, no? Le stesse cose distruttive che sono contro la creatività, sono contro, dicevo prima, la vita, no? Sono dei consigli per l'uso che vanno nella direzione di distruggere la vita. La vita che è, attenzione, secondo me è estremamente pesante, dura, è impregnata per ognuno di devastazioni, abbandoni, solitudini, lutti, genitori distratti e via di seguito. Detto questo, che è un assunto di base, bisognerebbe che ci fossero intanto una presa in carico da parte di questo paese, no? Che non vuole rendersi conto della gravità di questa patologia, parliamo di anoressia e di bulimia. Bulimia, per me questo è l'anno della bulimia, perché l'anoressia si porta dietro la bulimia, un'anoressia. Sì, sono, bulimia. Sì. Sì, sono come una spirale, insomma, che si alimenta dai due estremi. Certo, soprattutto in una situazione dove l'appetito non è mai ammalato, no? Lei parlava di 500 calorie, della metà di 500 calorie, non voglio neanche nominarle perché è aberrante, no? Per mantenere dei pesi o delle linee guida patologiche, perverse, noi stiamo parlando di perversioni, queste donne qua poi per forza incontrano la bulimia, si mettono a mangiare e vomitare. Ecco, ma questa, per esempio, l'esaltazione delle modelle, delle top model della moda, eccetera, della magrezza, della figura esile, slanciata, eccetera, continuano ad essere un modello perverso e negativo, oppure non è solo questo, insomma, che... Guardi, le modelle hanno sicuramente, le modelle, la moda, i creativi, lo Stato hanno una grossa responsabilità, che è quella di divulgare un'immagine corporea che non ha nessun senso rispetto alla vita, lei diceva prima, la vita delle donne, no? Le donne hanno anche una funzione, no? Che è quello di dare la vita. Certo. Credo che questi modelli circolino e circolino in modo devastante, arrivando dove vogliono, perché manca in questo momento una cultura, che è una cultura che possa dare dei valori altri da quelli della magrezza. Certo. La magrezza sta diventando addirittura quel tipo di magrezza di cui stiamo facendo allusione o di cui stiamo parlando, sta diventando il valore in modo talmente esasperato che, le posso dire sempre parlando dall'osservatorio ABA, che quello che sto rilevando è che l'anoressia non fa neanche più presa, non è neanche più considerata una cosa grave. Ecco, ma allora proprio per evitare, diciamo, questo tipo di equivoci e che questo atteggiamento si propaghi, rivolgiamo un appello. Invece di andare su Facebook, andate sul sito dell'ABA. Ripetiamolo, lei ce lo può dire qual è il sito del web, come si chiama? Che tra l'altro diventerà un altro sito nuovo, più interattivo, nei primi di gennaio, che attualmente è bulimia anoressia, con un'unica a bulimianoressia.it. Ecco, allora grazie alla dottoressa De Clercq e a presto. La ringrazio, buon lavoro. E auguri per il suo lavoro, grazie. Grazie, arrivederci. Mentre in Italia si discute di tagli all'istruzione di maestro unico, in Sudafrica il governo si prepara a fronteggiare invece una penuria di insegnanti. Secondo i calcoli, entro il 2015 saranno ben 94.000 i posti da insegnante che dovranno essere coperti, e questo è un problema, come scrive un Prega Govender in un articolo sul Times, giornale sudafricano, per due ragioni. Anzitutto per ragioni salariali, per le paghe troppo basse. Anche quelli che si qualificano come insegnanti tendono ad andare a insegnare altrove, in Inghilterra, in Nuova Zelanda, in Australia o addirittura in Dubai. E poi perché l'HIV, il virus della AIDS, sta mietendo molte vittime nella classe insegnante. E ci spostiamo in Malesia, dove, come leggiamo sul Daily Telegraph, gli islamici radicali hanno individuato un nuovo nemico, lo yoga. Secondo il presidente del Consiglio Nazionale della Fatwa malese, Abdul Shukor Husin, chi pratica lo yoga non può essere un buon musulmano, perché lo yoga, combinando esercizio fisico e elementi religiosi, canti e venerazione e meditazione trascendentale, in realtà tendono a raggiungere una pace interiore e a diventare tutt'uno con la divinità, un concetto assolutamente bandito dalla mentalità islamica. Mani Chaitanya, che è uno dei maggiori maestri di yoga indiani, gli ha subito risposto per le rime dicendo: caro Abdul, non hai capito proprio niente, lo yoga è universale e uno può essere benissimo un buon cristiano o un buon musulmano pur praticando lo yoga. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Daniele Casagrande e Laura Marchesi in redazione, Giorgio Mattè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti.